poteri forti, arti deboli, male sorti dei più deboli, flebili pensieri, tecniche di controllo, karma polis mentale, impiantataci in anni di sudditanza, male renale, poco rumore o ti verranno a prelevare. Campione positivo, sergente, paziente da prelevare, deportare. Non preoccupatevi, tutto andrà bene. C'era scritto anche sui cancelli di Auschwitz. Ultima umiliazione mondiale, usa da vomitare. E Italia pecora riflessa, schiava del nuovo ordine mondiale. Sta in salute o ti dovranno deportare. Controllo demografico o sei produttivo per la mondiale economia o sarai da sotterrare. Idee paranoide sedate da qualche medicinale in qualche psichiatria. Cospirazionisti da sedare, io riporto solo voce dei malati di mente che si esprimono controcorrente di sintesi di un malessere globale. Scemetto qualunque ma con un cuore e voce e tanta roba da cantare. In qualche modo un artista dovrà pur potersi sfogare. Rambo e Rocky ma col Covid, immunodepressori e nanotecnologie in vena, controllate dal 5G, iniettate in endovena come antidoto. Bill Gates, alfa e omega di sta merda, come siero chimico, numero come deportati nel file del microingegno, impianti numerati, soggetti a controlli, denunciati saranno i disobbedienti o gli immunodepressi soppressi dai dispositivi iniettati. Con solo controllo di un impulso, voce di sdegni da me, in vero riportati. Elenco, manco nuovi comandamenti, scie chimiche, 5G, spie, controllo liriche consumate. Voce mondiale dimezzata, fatta a male, male di vivere, case chiuse, entro paranoide, invisibile, incommensurabile, solitudine paranoicizzante. Stiamo vivendo dentro Paranoid Park di controinformazione, ma sarà tutto meno di verità o ciò che accade è l'unico vero peccato contro l'umanità. La verità.